Cina. Cinese. Oh, vabbè, qua se lo fanno pagare caro quello, è intorno ai 20 euro a salire. Ma forse io lo prendi direttamente dalla casa madre, boh, sarà per quello. Allora tu conta, c'è 2SC 1969 originali, 9 Mitsubishi, silicio, transito tipo NPN, C1969 costa 21,13 più 21,66, 40 euro. Maledetti, maledetti, se fanno pagare caro. Perché quelli cinesi non servono da niente? Perché sono quelli scadenti, capito? E durano poco, così l'hanno detto. Ma comunque prima ti devi assicurare che sia il problema del finale, capito? Quello sì, però lo stavo già iniziando a cercarlo, capito? Diciamo che sia lui. Maricano, boh. Questo qua non sta solo dalla Cina, questa è Cina. Tu passi a 5 pezzi, ti costano 7 euro. 4 pezzi, no, 5 pezzi. Sempre dalla Cina. Cina, Regno Unito. Regno Unito costa 8 euro. Ah, ci vive in 20, eh. 8,43 euro, 36, 55 più 9. Ah, a cagare, quanti cazzo sono? Cina. Tutto Cina, Stati Uniti costa NPN. 6,46 euro. 10 euro di spedizione. Quanto di spedizione, Lu? Costa più la spedizione che comprarlo. Ti sbaglia. Poi bisogna fare la dogana se quando te lo spedisce nuovamente, se non si blocca. È un casino. Il Regno Unito costa 5,99 più 99, 6 euro. No, 7 euro. È un casino, ho già compreso. Adesso vediamo, Lu. Vediamo, ma lo controllo. Domani con calma e vediamo che malanno che è successo. Ma lo seguirà l'ambulanza, sì? Cosa, Luca? C'è Marco, sta facendo un casino nero, che sta giocando col cane. Ho detto l'ambulanza, non la stai più guidando. No, sono già per i 4 mesi non ci stiamo andando, Lu. Ci siamo messi in stand by, a riposo. Per sicurezza è meglio, va. È meglio. Oi, già si abbiano in culo. Di Covid, cantore. E non stai combinando niente? No, Lu, la vita sì, tutti questi casini sono successi. Non mi sono ancora riorganizzato. E poi la morte di tuo padre anche lo stesso. È un casino. È un casino, sì. Mi sto svolgendo le commissioni, pratiche e via dicendo. Ah, e beh. Ma cosa vuoi fare, purtroppo? La vita è questa. E ci vuoi fare, Lugarie? Che se vuoi fare? Va bene. Nuda che potremmo fare? Niente, assolutamente niente. Quando ti ammali, sì, rimani ammalato e poi se campi è bene, se no ciao. È così. È l'errore c'è da chi resta sulla terra. Infatti, chi su è? Andrà bene, adesso ho fatto anche quelle due domande al comune, quello manovale e l'altro per il verde, però non ci voleva la qualifica. Adesso vediamo dove esce fuori. Io ho capito che stavo ascoltando un messaggio di cosa, di Marina, cosa stavi dicendo? Ho detto che sono fatte anche le domande per all'ufficio di collocamento, quello per manovale e al verde. Ma direttamente al collocamento o online? Online, aspetta che c'ho il telefono. Lugarie, ci sei? Sì, sono qua. Ti stavo dicendo, sì, li ho fatti online tramite il sito di Sardegna, no? Che mi ha scritto il tutto. Come fare le domande online? Io ho provato quelle che c'erano quelle domande, non so, Lavoras, così si chiama. Lavoras. Ma il numero non è inesistente, quello di Cagliari. che loro ti aiutano, si chiamava quel numero, ti aiutavano come fare la domanda. Ma è ancora valido? Quale che ho fatto io, Lu? Guarda, non lo so la verità SICAX in quanto... quando è la scadenza. Devi guardare sul sito del SIL Sardegna. Comunque diciamo che ero in graduatoria io. Ah, vediamo, se ne sciaffola, perché poi sono le fai, già lo sai, questi come la pensano. Oh, ya, yeah, lì si vogliono. Dico, io ero 60... non mi ricordo, forse 66esimo, buh. Ah, buh. Insomma, come le fanno adesso le graduatorie? Sempre da capo per ogni domanda che fai? Faccio proprio di sì. Andà bene, Neda. Diciamo questa volta, se no sei centesimo questa volta. Dipende, boh, non lo so, entrate hai. Ma cosa, lui? L'altra volta era 5 centesimo, non so ma cosa. L'altra volta sono entrato, l'altra volta, cavolo, sono già 7 anni fa, era entrato. E poi, boh, finito. Ma non vale, giusto? Ma non vale, yes. E te lo ricordi, e quanti comunali? Sì, mi ricordo che è entrato, però non mi ricordo se era Monofano o cosa. Vabbè. E che ci vuoi fare? Poi c'è anche l'altra, il verde, che non devi essere per forza giardiniere, aiutante, una specie di manovale pure lì. Vabbè. C'è stato un livello di tirando i soldi, a te ne frega. Ma chi su che fatemi va poi? E fine mese tiriamo le somme, quello che conta di più. Chissu, se non tiri le somme, via. Tiri la riga e conti. Infatti. Io vedo un casino. Ma questa qua la piazza domani, svezzino, così sono più fresco, non ci guarda qua. Cosa stai facendo? Piazzando? Svezzino al mio telefono. Ah. Vabbè. Guarda se hai modo, Lu, quanto costa il telefono del Samsung, che me la sorta è questo, il 6 Plus. Non ho capito, il quanto costa il telefono? No, il vetrino del Samsung. Cosa me la sorta è questo, il... aspetta, adesso te lo dico, stavo a dire in fretta, me la metto più. Il J6 Plus, il Galaxy. Aspetta, J6 Plus? K, il Galaxy. Ma qua c'è. Aspetta. Cos'è, nero, sì. Il mio è nero. 50 euro. Cosa faccio il bicarbonato? Com'è? Ah, boh, non lo so, Nolo, quanto costa. È vetro con l'LCD, però. Ah, tutto un blocco, Non ne vendono più, sono il vetrino adesso. Sono assemblati, capito, già ce l'hanno studiata bene, sì. Ah, io ero fermo quando vendevano i vetrini, poi c'era altro separato, capito? Comunque originale, J6 Plus 2018, J6 110 FN, touch screen nero originale, con Daudan costa 59 euro, 53 euro, poi da questo qua costa 49,90. Poi questo qua, però mi pare non c'ha l'adesivo preinstallato, 44, e non te ne fai niente. Questo qua c'ha il service pack, perciò è completo di biadesivo preinstallato. Sì, purtroppo devi cambiare tutto, Daniele. Sì, perché mi è caduto e si è fatta a mille un pezzo tutto il vetro. Ecco, come passi il dito, ogni tanto senti le scheggette. Non mi è caduto anche a me l'S10 in terra, ma ormai c'è un vetro di protezione. Infatti per quello me l'ho ricomprato, domani me l'ho piatto con calma. Cavaga, poi io a quella lente l'ho maltratto il telefono, là, sicuretto. Oia. Ehi, è un casino. Aspetta, ma facendo il televisore, per tanto devo mettere anche il pigiama. va bene. Perché tu non usi il pigiama? Certo. No, perché ha fatto la risata, come tanti cazzi che si muovono il pigiama. Io mi... abbiamo dormito con la finestra aperta. Mamma mia. No, perché stavo andando e ho detto, cavolo, il pigiama questa invece sono già le 10. Ha voglia di pigiama. È un casino. Uno casino, è uno casino. Ioioi. Ma Bombolino non c'è mai più rientrato? Sì, ogni giorno entra, oggi invece non ce l'ha fatta perché era stanco sicuramente. C'è ogni giorno. Come si dice? Adesso forse rientra pure Salvidio. Ehi, stavo parlando prima io con Bombolo, ma molto prima che ore sono state. Non mi ricordo più, 8:30, 7:30, boh, qualcosa del genere. Poi ha chiuso e infatti pensavo rientrasse, ma non è rientrato. Ma Salvidio non ce l'aveva già tutto, radio, antenna, tutto pronto. Sì, sì, è solo che dice che è rotta. Cazzo, pure l'antenna. No, con l'archino. Ah, è che malato gli ha preso. Oh, a quanto pare dice che era aperto, gli è caduto in terra e sotto la scheda. Che cazzo, ha preso di tutto. Sì, sì. E quindi adesso si deve comprare un'altra radio. Sì, sta cercando un malacchino da spendere poco. Sì, quello da 30 euro. Come pezzi su, e a quello ne esce uno sano. C'è sempre anche lui, io c'ho un mobico, un nuovo nuovo, che non mi porto nulla, è ributtato. Ma volevo fare una prova, volevo adattargli questo microfono qua, a vedere se esce bene. È abbassato di watt, portando a 5 watt, va bene. Cava, cava. Dipende da quanto vuol spendere lui con una radio, boh, ce ne sono da tutti i prezzi. 80-100 euro. Vuole spendere? Ne trova. Ne trova, si apre su subito, ma su subito, anche su eBay, apertutto ne trova. Sono al nostro programma Canale 5. Sono nuovi cantanti, Oh, no, e Marco sta guardando i suoi cartoni, poi non aveva ancora accenato, lui era in giro a fare commissioni, si è trovato mai ti vecchia e ancora una turrata. Ehi, stava parlando con l'amica, qua fuori. Oioioia. Sì, roba veloce, anche la di notte stia accenando più di tanto lui. Salata, e ci ho spezzettato due pezzi di pollo nel mezzo. E basta, è una banana. Già va bene, roba leggera, che sennò a voi sono da quando è da sabato e c'ho questa cosa allo stomaco. Adesso la banana mi sta passando. E io ho questi calcoli alla bile, no? Mangiamo tutti di palle. Infatti un po' mi fanno male. Ma la taglia usava l'operato oggi. Oggi non era ieri dovevano operarlo. No, oggi l'hanno operato. Cava cava. Sempre lì a cioè, calcoli. Allora, anche io dovrei essere operato da me. Perché stanno iniziando a rompere le palle. Lu, quelli quando si scoprono bisogna farli subito e poi crescono, cavolo, è un macello. Almeno così, se si fanno subito, fatto fatto, non ci pensi più e con poco te ne esci, capito? Invece più si aspetta e più è tribola la cosa. Lo so. Allora, tu vabbè, non l'hai conosciuto, Angelo, uno parlava baracchino, era sempre a dolori, spendeva l'antidolorifico, passato il tempo, un giorno è stato malissimo, gli hanno chiamato l'ambulanza, ed era tutto pus. Perché poi nascono le complicazioni, capito lui? A parte che poi crescono, perché crescono, e poi i dolori atroci che ti danno, già lo so, mia che la mamma di un amico mio, quando è? Un paio di settimane fa, l'hanno operata qua al civile, sempre la situazione dei calcoli, tenuta un giorno, il giorno dopo mi è andata a casa, e ogni giorno andare a fare la medicazione. Per forza. No, ma se me li levo poi stanno bene, sicuramente stanno bene. Guarda, conta che una tipa che conosco io ha sempre mal di schiena, questo mal di schiena fastidioso. Beh, tu non ci crederai, poi ho già detto lì, poi non ho detto una stupidaggine. Praticamente era dovuto dai calcoli. È così, Lu. ci sono dei sintomi, delle avvertenze che per noi, diciamo, mal di schiena o altre cose che poi magari sono campane d'allarme, capito? E a suonare l'allarme. Ma infatti, benissimo. Io già sono benefreghista, lascia perdere. Un po' tutti siamo così, penso che facciamo. Un po' tutti siamo così, specialmente quando ti far mettere le mani addosso. Allora sì. Oh, yeah. Come hai detto tu, poi questa cosa avanza, è un casino, ma diventa più difficoltoso anche per loro. Ma io sono stato operato nel... cazzo, guarda, quasi 5 anni sono passati, sono 5 anni con Marina, pensa tu. Infatti il medico mi ha detto che erano da levare urgentemente, pensa tu, il medico. Così è, tu tienili sempre sotto controllo, non trascurarti. Io ne ho abusato, mi bevendo birra, bevendo qualche bicchiere di vino, qualche cremetta di whisky, mangiando cazzate, panini, pizze e quant'altro. E lì, infatti, adesso devo stare attento. Oggi mangio un bel piattosto di pasta, ma io mangio giusto due forchettate, giusto per... Eia, è così. Ma poi quando ritorni riprendi la vita normale, capito? Poi ritorni alla normalità, capito? E va bene, certo un po' al regime devi restare, ma all'80%, anche 90%, dai, non c'hai grossi problemi. Che se ne frega, stavo al regime, ma io ho preso 80 kg quasi. Già vai bene Lu, cosa vuoi pesare? 20 kg quanto a me? No, oh, dico, diciamo nella norma ci siamo quasi, dai. Per l'altezza che ho, siamo quasi lì. Forse qualche chiletto di troppo, ma vabbè. La mia devo per forza farlo, perché è da ieri. Intanto mi siete in moto, un po' mi passa, mi viene, mi passa, capito? E adesso devo sentire il medico che cosa dice, però purtroppo per via del Covid è un casino. Quello sì, adesso meglio non entrarci, meglio guarda solo per casi di estrema necessità, che se no è un macello in tutti i sensi, sia con questa storia del Covid che i reparti sono incasinati e non sanno neanche loro da che parte iniziare. Sì, ma se uno sta male come cazzo fa? Adesso Lu, come adesso per loro stare male è male moribondo, capito? Non andare per cosa ne so, c'hai capogiro, c'hai vertigini, ti fa male l'orecchio, quello no. Lo so. Capito? Perché ormai è basato tutto su Covid e Covid. Il resto per loro non esiste. Capito? Sono, ripeto, casi estremi, proprio oltre al Covid, altre patologie estreme che non ne puoi fare proprio a meno di andarci. Lo so, ma non posso stare manco così, Daniel, capito? Non è che posso stare così con questa fitta che ho, diciamo, non è che sto male, infatti di solito mi prendo una bustina un po' meno calma, ma non posso stare a forza di bustine, c'è di occhi, capito? Ah, quindi c'è anche una terapia, te l'avevano dato, sì? No, assolutamente no, erano da levare. Ah, proprio... O li levi, boh, basta. Beh, purtroppo sì. Guarda il dottore a me, di levarli e boh, che poi è un casino, eh? Lu, vedi un po', di riuscire a farli. Molto grandi erano. Sì, granditi, Daniele, 10 ne ho. Chi ha la faccia? Ripeto, ne ho abusato di quello che ti ho detto prima e non dovevo farlo. dice voi non siete frega, siete frega e poi arrivano le conseguenze. Sì, vabbè, Lu, alle volte non è detto, alle volte va, tu puoi fare vita regolare, sana, genuina, quello che vuoi, super alimentazione, equilibrata, quello e quell'altro, ma una cosa c'è uno che veniva in Roma stessi, questo è poco ma sicuro, constatato per esperienza. Guarda, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Quindi è inutile dire, è successo perché ho fatto, è fatto, questo è successo che doveva succedere, punto e basta. Però non bisogna sottovalutarla, è molto pericolosa, è mortale, lo sai, sì. Cava, cava. È così, già lo so, Lu, già lo so. Vabbè, se tieni sotto controllo e poi li fai, li togli, non c'è problema. Lo so, sotto controllo è sotto controllo. Però sai com'è, no? Mi hanno sconsigliato, vabbè, di mangiare roba fritta. Tu conta che io sono... sono... quattro anni non mangio uova. Oddio, uova no, è proprio uova in sé, ecco. Però me la facevo con le cipolle, così strapazzate, no? Fatte a coso, da... c'è quello, c'è il mutato così, non mi piace, con l'occhio di buono, te lo vuoi chiamare. Girati, no? Con cipolla, ci metto un filante. Oh, sono 4 anni che non ne mangio, però quando si fa la torta l'uovo c'è, capito? Oppure quando si fa una frittata l'uovo c'è. Lo so, Lu, però il fritto in generale, che è quello che deve stare proprio alla larga, zero. Ma infatti già quando Marina fa roba fritta al frigo la mangia spesso. Io dico di no, che per me non mi interessa. Lu, già lo so. Già lo so, proprio il fritto, guarda, io non sono andato mai d'accordo da quando ero piccolino. A me piace un casino, Perché io mangio roba fritta, roba grassa in generale, mi sta tutta su e giù. Tanto roba fritta non ne mangi. Cosa, Lu? Ho detto roba fritta non ne mangi. L'assaggio così, capito? Due, tre patatine per dire, sì, adesso magari una fettina impanata, però non deve essere zuppa d'olio, diciamo, dai. No, zuppa d'olio no, minchia. Capito? Alle volte capita che fai magari il fritto e si e un po' ti ci inzuppa. E si conferma, è vero, è vero. Lo so. Io ne ho abusato troppo, ogni giorno, un giorno mattoncini, un giorno sofficini, uova, patatine fritte, fettine impanate, capocolle, patate fritto, ogni tanta lì. Poi sono arrivati questi dolori forti, guarda, sono andato a finire al pronto soccorso alle 2 di notte. Lo so, lo so. Ti piega in due e sono dolori atroci, dolori allucinanti. Perciò bisogna adesso una regolata, dai. È come quello là che fuma, fuma, fuma, poi smette di fumare, ormai non puoi più fumare perché le tue te le hai già fumate. Ma anche quello che beveva, si è bevuto tutte quelle birre prima, adesso non può più bere. Ne conosco tanti, c'è tanti, qualcuno lo conosco, che non può più bere, solo acqua e blu. Prima ti sei dato da fare, è normale. È normale, tutto c'ha un limite, bastava andare regolare e a quest'ora sarebbero stati tutti tranquilli. Poi da lì se vai a mangiare vai, tranquillo. No, ancora no, Lu, lui è andato a portare il bambò a fare il giro giro tondo. Quando vuoi andare, tu già sono ancora qua, non ti preoccupare. Quando vuoi andare non ti mettere problemi. No, come rientra? È tornato, ha preso il cane e l'ha portato subito a fare il giro, che stava iniziando a essere elettrico. E cane è? Non mi ricordo. C'ha un mix tra Labrador incrociato con un Pitbull. Ma è vero, è bravo, sì. è un buonaccione, però alle volte c'ha queste crisi, cavolo, è diventato indemoniato. Ma che idea, lo stesso, quando è tranquilla, ma la prende in gioco, cioè, si mette in gioco, inizia a musicare. Esagera, bisogna quelli non si chirrio e si calma, altrimenti bisogna risalire la coppa adesso, altrimenti non è più grande, si è fregato. Lo so lui, lo so. A Marco lo fa beffa a lui. Guarda, sono una comica a vedere. Perché giocano magari. Si vedono piccoli tutti e due. Poi quando non c'è Marco diventa un agnellino. Rumido tutto il giorno. Per dire, come fa a scuola alle 8:30. Lui sta sempre addormentato. Sì, si muove, fa. Ogni tanto lo porto qua in cortile, faccio fare una corsetta. Poi ritorna dentro. E sta calmo e sereno. E lui sta solo ancora la giornata. Poi quando ritorna Marco alle 4:30, boh, finita la pacchia. Questo cane non sta... Vabbè, perché è cucciolo ancora. 3 mesi c'ha lui. 3 mesi, ma come se avesse già 2 anni. Ne ha 4 mesi. Che arriva, cioè 3 mesi e si mette i piedi già sul tavolo. Arriva già con le zampe sul tavolo, bello tranquillo. Perché è cane taglia grande. Taglia enorme, altro che grande. Fra un po' dobbiamo uscire noi di casa. Cavolo, solo l'altro giorno, tra pranzo e cena, si è mangiato 1,5 kg di bocconcini. E lo so chi sia, anzi. Lo so, mangiano e come? Non è stato le scatolette, le sto comprando lì in via Pascoli, H Planet, boh. A quel negozio, sì, ho capito. Ma è raro che lui le mangi queste scatole, se no mangia roba nostra, La pasta, le scodellatole in bianco, le radai e così sa, capito? Che lui mangia, ma poi mangia tutto, frutta, la zetta mangia. Ma non come abituarlo così, che quello di dividere quella roba lì, Dico, cioè come farla andare a crocchette. C'ha anche quelle, c'ha tutto. Quello è a premio, diciamo, dai, ogni tanto un giro di bocconi. Ma conviene abituarlo così, Dani, che poi non ne mangia più, Affidalo a banane, a mandarini, o se non tu ne mangia. Sbagliato, non dargli banane che sono pesanti per il cane. Ti puoi dare un pezzettino quando sarà il periodo di meloni. Lui lo mangiava, il melone, la pesca, la banana, proprio un pezzettino piccolo, quanto un mignolo, quanto è lunga del mignolo, là. Poi l'uva gli piaceva un bel, mi bisciglia, come vedeva col grappolo in mano, me ne entrava fino in camera, perché voleva l'uva. Sono così, è una cosa allucinante. Cazzo, ieri notte non si è messo a dormire dentro il caminetto. Cesso, tutto sporco era stamattina, sembrava, i cani randaggi, ma neanche. Disperso in qualche cava era. Ma perché caminetto lo stai già utilizzando? Ogni tanto lui, quando inizia a scendere la temperatura la notte, dai, bruci, non so, 3 pezzi di tavoletta giusto per temperare, no? Ti metti lì e fai un po' di tempone. E si è fatta beffa. Ma c'è color crema, cane suo? No, è nero. Già non si vede allora. Non si vede, ma come ti lo toccavi su Manzano, ha sbattuto, pum, un abbione. Purtroppo, Mari ci aveva freddo. Non è che ha messo a lavare la sua, diciamo, la sua cuccia, dove dormiva sempre. Ha messo un'altra, ha messo una maglia grossa. Pensa che non gli piaceva e se n'è andato dentro il caminetto. Come si chiama? Orso, di nome di fatto. Orso bimbo. Cosa lui? Ho detto orso bimbo. Orso bimbone. Ma tra poco sono d'amplificazione, come sta andando bene? Sì, va bene, che ogni tanto c'è Marco che mi parla sopra. No, sono abbasso un po', sono a 5. No, Lu, fai bene, fai bene. Fai più che bene. Niente, ciò ti avrei già detto. Ma la sta pompando questo microfono, sì? Ehi, alla grande, Lu. Funge. Tu l'altro giorno, l'8007. E quale, Lu? Ho detto tu stai usando l'8007. No. E quale hai? L'87. Ehi, vabbè, l'87, non l'8007, io sono più sbagliato. 87! Bevi! Adesso ce lo beviamo! Gava! E che l'ho finito, c'ho un palco, cavolo, sono rimasto senza scala e l'ho chiesto a mio zio qua su. Un casino, Ma tu sempre sei, sì? Sì, Lugaia, sempre a piano terra sono. Poi sono costruito un soppalco per farmi la stanzetta mia, l'angoletto mio. Sento che c'è la casa della mia che mi sta qua vicino. Che stavo sistemando, lo stavo aiutando a fare una cabina armadio. Ed è rimasta lì, però adesso la scala mi serviva per salire qua e me l'ho dovuta far prestare. E non era tuia. No, vabbè, la sua, siccome quella è pesante, allora l'ho lasciata lì. Adesso questa l'ho fatta apprezzare che è l'alluminio leggera. Ah, pensavo fosse la tua. No, la sua mia è a casa di questo amico mio, però vabbè, pesanti, cavolo, ogni volta sposta fai. Come devo sempre fia, in teoria questo devo allungare un altro metro e cercare di costruire una scala fissa. Ah, ecco. Allora farò costruisci in legno. Ehi, in qualche modo, Lu, in legno, adesso vediamo, metti in valla. Apri come? Ti prendi il materiale, te la fai tu. Cosa stai lì? E gliela lasci fissa. Gava, quello sì. Ehi, vabbè, adesso vediamo come fare. Anda bene veda! Gava! E sai cosa succede? Ora, meglio va così, Lu. No, la trovano fortissimo, io una bella è forte la radio. Gava. E la posso ancora aumentare, volendo. E la cosa? Andava bene. Già funge. Gava. Se no tolgo... Da questo il finale lo mettiamo in questo, che va a succedere. Che te la stai usando adesso, Daniele? L'energia di 5 ottavi, Lugarie. Sarebbe l'energia, quella com'è? Quella c'ha 3 radialini. Ah, e com'è? Cioè com'è? Dico, arrende, sì. Ha voglia. Ma più che bene, cavolo, quando ho propagazione funge, già mi faccio sentire. Ma tipo la Ringo, no? La Ringo, non c'ho presente la Ringo. Ah sì, cazzo non c'ho presente. Sì, però c'ha 3 radialini. Energy New? Adesso si chiama Energy New. Da Midland? Cava. Picchia, mia radiale. Quanto mi danno con radiale? Sui metri. Aspetta, vediamo un po', immagini. Aspetta. No, formula. Cioè sul tetto o nel terrazzo? Nel terrazzo a posto della manto vai. No, i radialini sono piccoli, Lu, quanto sono? Da metro. Un metro? Qualcosa in più, dai, adesso me lo ricordo con esattezza. Però non so, lo so che nella foto sembrano molto più lunghi. E come si tara, si taratta? Ho preso già Antonio, me l'aveva dato, Antonio Grode, che me l'aveva dato già taratta, è a posto. Dallo stelo di su, ho capito. Vabbè, l'ho già visto. Radiali in cosa sono? In alluminio? Cava. Sì, Lu, servono piccoli, flessibili, in modo tale che superasse quella mantovana che c'è, capito? È l'umida, spendiamo questo qua. E voi, ragazzi. Che raso, 10 e 20 sono. Uff, la gara. Ci ho provato questo cuscino da niente, bello, di quelli che ti prende la forma della tua testa. Ho capito. Memory. Memory card. Ah, memory card, cazzo, quella della PlayStation. Memory, sì. La tomo bene, di lusso. Eia. Buono, buono, ma non sono di quelli che fanno accullano. No, no, non è un classico cuscino, però di quelli che prende la forma. Questi sono i classici cuscini che prendono, così uguale. Che sono morbidi, morbidi. Già vabbè, no, perché un tempo erano usciti quelli per la cervicale, non so che mi hanno vaziani. Giorno prima avevano regalato la vita sicca, ma per carità, giorno poi ancora più a dolori. No, non è morbido, morbido, sono, rimane un po' duretto come, come cuscino. Poi già va bene. Cava cava e cava cava. Va bene Lugarie, dai! Che adesso fine le trasmissioni mi sa che me ne vado a cenare. Ehi Alania, dai, ci aggiorniamo. Buonanotte, saluti a tutti. A proposito, mamma come sta? Cosa Lu? Marco, cosa Lu? Ho detto mamma come sta? Chi? Tua madre, tutto a posto, sì. Ah, si sta riprendendo Lu. Si sta riprendendo piano piano. Quindi così, saluta da parte mia e saluta anche a Lorena, a Marcolino, dai, ci sentiamo, dai, ci aggiorniamo Daniele. Cavaliere smetto Lugaria, dai. Ci ascoltiamo le prossime se coincide. Se c'ho la scala magari entro anche domani. Saluto, ti organizza, ti organizzi e te la costruisci tu. Chiava gava. E vabbè, Lugaria, dai, saluta anche tu al Correa Familiare a tutti quanti, dai. Ci ascoltiamo le prossime. Ehi, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Andate a con i capi. Tu capi di vela.